Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che parla di lavoro da un punto di vista femminile, di come conciliare i diversi tempi, la famiglia, il tempo per sé, il tempo che si dedica alle cose di lavoro, appunto, tutto ciò sfuggendo, se possibile, al mito più distruttivo degli ultimi anni, quello del multitasking, quello secondo cui fare tante cose è una prerogativa femminile e con ciò schiavizzandoci tutte noi che ci siamo convinte in questi anni che potevamo fare tutto, farlo bene, se non lo facevamo benissimo, tonnellate di sensi di colpa. Non è così, non si può fare tutto, si deve scegliere e poi si fa quel che si può, come diciamo in un programma che non per niente si chiama Nessuna è perfetta. E a proposito di lavoro, sapete che a quanto pare c'è un modo di essere più felici nel nostro ambiente di lavoro e qualcosa che aiuta ad essere, se non più felici, almeno più rilassati, sia quando si sta in ufficio che quando si torna a casa. Ce lo spiegano due esperti inglesi, due esperti appunto di dinamiche del lavoro, si chiamano Sue Hadfield e Jill Hesson, e lo fanno già nelle prime righe di un loro saggio che si intitola Come essere assertivi in ogni situazione. La parola chiave è appunto questa, assertività. Che cosa significa essere assertivi? Significa comunicare agli altri in maniera garbata ma chiara quello che si vuole e quello che non si vuole. E secondo i due esperti inglesi è il massimo per vivere meglio le proprie relazioni professionali e personali. Certo. Non sempre è facile, perché la sindrome di Fantozzi, quella che raggela quando si deve chiedere qualcosa a un capo, è molto più diffusa, è capitata a tutti noi e ci rimanda indietro a quando bambini dovevamo chiedere il permesso a papà. Scattano delle dinamiche che gli psicanalisti conoscono molto bene, e però sono cose che si superano, e noi cercheremo di capire anche che cosa ne pensa tra pochissimo il nostro agente provocatore di questa domenica. Benvenuto, buona domenica al nostro agente provocatore di questa domenica, Oliviero Bea, giornalista, conduttore TV, scrittore. A proposito, è appena uscito, da poco, uscito il suo libro, ultimo libro, Mio nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto. E allora, intanto, non posso non chiederti, in questo tuo libro dedicato a tuo nipote, con evidenti diciamo certezze che sia molto complicato essere onesti, si parla anche dell'essere chiari nel dire esattamente quello che si pensa. Con quali rischi? Con i rischi che derivano, intanto buongiorno a tutti, con i rischi che derivano dal fatto di vivere in una società che ha messo la chiarezza all'ultimo posto e l'opacità al primo. E quindi l'essere chiari nelle parole significa spessissimo la traduzione di un pensiero chiaro, di un modo di stare al mondo chiaro. Sono tutte cose che sembrano lontanissime dalle nostre abitudini ormai, e invece bisognerà in qualche modo riconquistarle. Almeno spero che mio nipote, come tutti i nipoti del mondo, insomma, abbiano più tempo e più voglia per ripensare a queste cose. A proposito comunque di chiarezza nel linguaggio, la chiarezza del linguaggio è una forma di onestà con se stessi. Quando io parlo di giungla nel titolo del mio libro, non mi sto riferendo soltanto alla giungla che abbiamo fuori di noi, ma anche alla giungla che abbiamo dentro di noi. Questo vale per uomini, donne, anziani, bambini Ecco, forse in questo caso mio nipote a 20 mesi o poco più, ringraziando Dio per il momento che sta giunga non ce l'ha, il problema è quando gli cresce dentro. Perché Oliviero, noi veniamo educati, è proprio un sistema italiano questo, veniamo educati all'ipocrisia, non si dice direttamente qui si parla di lavoro, no? Al proprio capo, guarda, io questo non lo posso fare perché non rientra nelle mie mansioni, ma questo però non significa che io sia uno scansafatiche. Noi oscilliamo, penso spesso anche all'atteggiamento femminile sul luogo di lavoro, oscilliamo tra la sottomissione, no? Faccio tutto, mi carico di tutto e poi però borbotto dentro di me, e la reazione, uso un termine che è un boomerang per le donne, ma è così, la reazione isterica, no? Sbattere i fogli sulla scrivania e dire no, basta, vi state approfittando di me, e andare via sbattendo la porta, che sono due reazioni entrambe evidentemente sbagliate. Allora, intanto il tema è interessantissimo e ci porterebbe via delle ore di conversazione, quindi sono costretto alla sintesi, presumendo che tu non abbia tutte queste giornate. Ahimè, no. Ecco. Allora, intanto le risposte potrebbero essere parecchie, e diciamo che io mi limito a quelle più visibili, più vistose. Intanto questo paese, a differenza di altri, soffre più degli altri di una mancanza di identità. L'identità consiste nel sapere chi sei, detto in sordoni, e se sai chi sei perché sai da chi sei venuto, hai memoria e quindi ti puoi prefigurare un futuro. È esattamente un percorso diacronico che oggi in Italia non si riesce a fare, per tanti motivi che adesso ti risparmio. E nel caso delle donne, le donne sono ancora più soggette a questa pressione di poco identitaria, come mancanza di identità, perché hanno troppe cose da fare, hanno troppe vite, la vita delle donne è più oggettivamente ricca. Ci siamo anche inventate o ci hanno costretto a credere nel multitasking, quindi aumentando la pressione. Appunto, siccome insisto sul rapporto che c'è fra l'atteggiamento, la parola come massima espressione di contatto, che poi non è solo quella, perché tu mi insegni che al di là della parola c'è come si guardano le persone, c'è una sicurezza nello sguardo, per esempio, che è un valore e che invece viene poco praticata. Vedere una persona che ti guarda negli occhi è già una cosa diversa dal trattare con qualcuno che non ti guarda per niente. Insomma, ci sarebbero tante considerazioni all'atere, importanti, ma comunque che si aggiungono al discorso sulla parola e sul modo di affrontare dialogando i problemi e le persone. Ebbene, le donne da questo punto di vista, pur essendo più ricche, io credo, per tanti motivi, nel rapporto dentro-fuori, vita interiore, vita esteriore, arrivano, soprattutto nel mondo del lavoro, arrivano con ritardo, non per colpa delle donne, ma per colpa ovviamente della situazione, e questo ritardo in qualche modo psicologicamente si fa sentire. E pur essendo, ripeto, più equilibrate degli uomini nel rapporto dentro-fuori, e sul piano del lavoro pesa. Io credo che per esempio in famiglia sia addirittura ribaltabile, sì, certo. E quindi non è un caso che le donne che hanno un trascorso alle spalle, un secoli di famiglia d'altro tipo, essendo poi naturalmente all'origine della trasmissione della vita, un'altra volta quando vuoi sono a disposizione per parlare dell'utero in affitto, c'è un capitolo del mio libro dedicato a mio nipote che si intitola L'utero in affitto e la crisi degli alloggi, così puoi immaginare. Affascinante, ci dedicheremo una puntata a questo. Lo prometto, Oliviero. Grazie a Oliviero Bea per la sua storia personale, e vi ricordo che il libro che ha scritto per il suo nipotino di 20 mesi, Mio nipote nella giungla, tutto ciò che lo attende nel caso fosse onesto, è in libreria e attende la vostra curiosità. Buona domenica, Oliviero. Grazie, buona domenica a tutti. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e come sempre questo è il momento della nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl questa domenica è Mara Carfagna e ovviamente questa nostra conversazione era partita con l'idea di parlare appunto di che cos'è l'assertività in politica e di quanto le donne riescano a essere assertive rispetto ai capi che sono quasi sempre maschi in politica. Ma le immagini che da giorni ci perseguitano, perché è ovvio che quanto è successo a Rigopiano, prima l'angoscia per tutti dispersi, poi il sollievo per le vittime che sono state estratte e invece la preoccupazione per quelle che ancora sono disperse, cambia il senso di questa nostra conversazione. Io vorrei chiedere, Mara Carfagna, ma un politico in questi momenti come si sente? Le immagini che guardiamo in queste ore, che abbiamo visto in questi giorni, le notizie che ci arrivano sono notizie che provocano angoscia, dolore, sgomento, preoccupazione e anche sollievo quando è arrivata la notizia che alcuni dispersi erano stati estratti vivi dalle macerie, dai cumuli di macerie, di neve, di gelo, da soccorritori che non a torto sono stati definiti degli eroi. Quindi diciamo un miscuglio di sensazioni, così come accade ad ogni persona che si trova ad assistere a quelle immagini. C'è un di più di consapevolezza, che penso per esempio a quanto ho letto, come tutti, rispetto agli spazzaneve che mancano, rispetto ai tagli che sono stati apportati ai mezzi che avrebbero dovuto essere a disposizione. Uno si interroga se una regione come l'Abruzzo non debba avere a disposizione dei mezzi, perché si sa che è una regione a rischio di nevicate. E allora non c'è una sensazione in un politico che come lei sta da molti anni in Parlamento, una sensazione di impotenza o comunque di aver sbagliato qualcosa, invece non lei personalmente, ma dico la classe politica in generale? Ma tutti in queste ore si sono chiesti se la macchina dei soccorsi ha funzionato a dovere, oppure se ci sono state invece delle cose che non hanno funzionato, dei ritardi o delle superficialità. Sappiamo che il primo allarme è stato per esempio dato mercoledì pomeriggio dopo le 17 e che i soccorsi sono arrivati molto molto dopo, addirittura nel corso della notte. Sappiamo che addirittura c'era stato un allarme riguardo al rischio valanghe, al rischio tormente di neve, che comunque avrebbe sicuramente intralciato la normale viabilità. E quindi oltre a chiederci se tutto questo poteva in qualche modo essere evitato o meno, abbiamo noi sicuramente un dovere, che è quello di verificare che cosa è accaduto, se ci sono delle responsabilità, se qualcuno non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, se c'è un sistema che non funziona come dovrebbe, che magari è stato depotenziato. Abbiamo letto che siccome arrivano segnalazioni di ogni genere e tipo, è difficile selezionare quelle serie da quelle che serie non sono. Però è anche un po' improbabile, no? Che una segnalazione che arrivava dallo stesso proprietario dell'albergo non fosse stata presa sul serio. Non solo, ma in una zona dove ci sono state violenti scosse di terremoto e un'abbondante nevicata, con un allarme legato al rischio valanghe che era stato dato nei giorni precedenti, diciamo che allarmi di questo genere non dovrebbero essere sottovalutati. Però insomma, siccome si tratta di verificare con grande attenzione quello che è accaduto, noi abbiamo chiesto che il governo venga in aula a riferire, come è giusto che sia, e probabilmente avrebbe dovuto farlo anche nel corso di queste ore, ma insomma abbiamo chiesto che martedì all'apertura dei lavori il governo si assuma la responsabilità di riferire quello che è accaduto in questi giorni, per capire cosa non ha funzionato, per capire se ci sono delle responsabilità e per capire se c'è un sistema che in questi anni è stato debilitato, depotenziato, disarticolato e se quindi la politica e il Parlamento può intervenire per migliorare e potenziare il sistema dei soccorsi. Si è detto che il sistema di protezione civile, che in passato è stato anche oggetto di inchieste giudiziarie perché ci sono stati casi evidenziati dalla magistratura, gravi casi di corruzione, di speculazione sul dolore, sui disastri legati appunto a terremoti, legati a eventi catastrofici di cui purtroppo l'Italia è spesso vittima. Quindi da un lato c'è l'obiezione di quanti dicono: beh, ma cosa volete? Attaccate il sistema di adesso perché volete tornare al decisionismo fuori controllo di qualche anno fa. Beh, quando ci si trova di fronte ad un'emergenza c'è bisogno sicuramente di decisionismo, e è ovvio che il decisionismo non comporta la rinuncia alla trasparenza. Il modello a cui lei ha fatto riferimento è un modello che per esempio all'Aquila fu in grado di assegnare più di 5.000 abitazioni in 100 giorni. Fu un modello che si contraddistinse per grande efficienza, lodato dall'Ocse nel 2010 per la sua capacità di azione, per la sua capacità anche di coordinamento con il governo centrale. Oggi la catena di comando è stata sdoppiata, è stata disarticolata e quello che manca è qualcuno che è in grado di metterci la faccia e di assumersi le responsabilità, cosa che in un contesto contrassegnato dall'emergenza è di fondamentale importanza, perché ti permette di assumere delle decisioni che devono essere inevitabilmente tempestive e assunte nel più breve tempo possibile. Quindi bisogna insomma contemperare l'esigenza della trasparenza a quella della tempestività e del decisionismo. Non si può sacrificare la tempestività con poi tutte le conseguenze del caso. Quindi fermo restando che per noi la trasparenza è un principio sacro, imprescindibile, e ben vengano le inchieste, le indagini che servono a individuare responsabilità, e laddove ci siano state queste responsabilità, ecco, siamo i primi a dire che chi deve pagare paghi fino intanto in fondo. Volevo dirle che comunque il nostro pensiero va alle famiglie, no? di quanti sono ancora incerti sulla possibilità che i propri cari siano possibilmente vivi. Va, immaginiamo il loro dolore, la loro angoscia, e va ai 135 uomini che sono impegnati nei soccorsi. Un'ultima cosa le volevo chiedere: se lei dovesse obiettivamente fare una critica, perché fa sempre bene ragionare anche in termini di autocritica, non a se stessa, ripeto, non a se stessa, ma alla classe politica in generale, non nel caso specifico dell'hotel Rigopiano, ma nella diciamo valutazione di tagli che siamo stati costretti a fare probabilmente negli anni, forse si potevano fare valutazioni più attente. Mi chiedo se state facendo una riflessione come classe politica su questo. Guardi, il criterio che dovrebbe ispirarci credo è abbastanza semplice, nel senso che una vita umana, la sicurezza dei cittadini, contro la povertà, la lotta contro la disoccupazione, tutte le emergenze quotidiane che vivono i cittadini sulla loro pelle, ovviamente le emergenze anche naturalmente, visto che ne stiamo parlando, legate al terremoto, alle catastrofi naturali, valgono di più di un parametro europeo, valgono di più di un vincolo di bilancio. Allora, quando noi diciamo che è giusto far sentire la propria voce in Europa e lottare anche, negoziare anche duramente per sforare quei vincoli di bilancio che in questi anni hanno affamato i popoli europei, lo diciamo con cognizione di causa, però diciamo che questa lotta sui tavoli europei va portata e va fatta non per ottenere un bonus, non per ottenere misure che non hanno nulla di strutturale e che non incidono sulla capacità poi di un paese di dare quelle risposte che perché i cittadini poi, richiedono. Perché un paese va anche considerato per la credibilità delle sue azioni, ma qui ovviamente credibilità, se sì. Tu vai in Europa e per esempio, mi riferisco al famoso vertice di Bratislava, e al tavolo dei negoziati accetti praticamente tutto e poi vai in conferenza stampa, fai la voce grossa soltanto evidentemente per ottenere qualche consenso in più in vista di un referendum che ha deciso la sorte evidentemente non tanto delle istituzioni italiane quanto di quel governo che si era fatto promotore di quel referendum, è chiaro che il gioco non funziona. Bisogna andare in Europa e bisogna dire a questa Europa che non si può affamare i popoli europei con i vincoli di bilancio ottusi che hanno messo in ginocchio le nostre economie e la nostra società. Sì, questo è un discorso che ci porterebbe lontano e su un terreno ovviamente diverso, non si può affrontare nei pochi minuti di cui disponiamo. Io ringrazio l'onorevole Mara Carfagna per aver cambiato così, diciamo, in corsa, no, il senso della nostra conversazione. Ci sarà occasione per tornare a parlare di che cos'è l'assertività per lei e come ha sperimentato in questi anni di attività politica, se c'è o c'è o se c'è bisogno di più. Io intanto la ringrazio. Grazie a lei. Vi aspetto tra pochi secondi. Nessuna è perfetta. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Continuiamo a parlare di assertività. Che cosa significa? Significa comunicare nel migliore dei modi le proprie opinioni nel mondo del lavoro, ai propri collaboratori o ai nostri capi. Significa talvolta anche dire dei no. E vi presento subito gli esperti di questa domenica che mi aiuteranno con la loro esperienza appunto a chiarire meglio il senso dell'argomento che abbiamo scelto questa domenica. È con noi Sandra Mori, International General Counsel Europe di Coca-Cola e presidente di Valore D. L'avete già incontrata in un'altra puntata. Buona domenica, Sandra. Buongiorno Maria, buona domenica a tutti. Ed è con noi anche Enrico Zanetti. L'onorevole Zanetti è segretario di Scelta Civica, è stato vice ministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel governo Renzi. Cominciamo subito con Sandra Mori. Stiamo parlando di assertività. Sandra, si ottiene di più se si dice bene no? Quando, per esempio, nelle dimensioni professionali di lavoro capita di essere richieste di far cose che esulano magari dalle proprie competenze, che vanno a accumularsi al lavoro pregresso. E nella tua esperienza, ti è successo di dire no, sono impegnata, non riesco a farlo? È un discorso molto difficile il saper dire no, quando dire no e come dire no. Nella mia esperienza è sicuramente legato alla progressione di carriera, perché indipendentemente da quello che uno può dire, da tutte le teorie o i libri che si possono leggere sull'argomento, agli inizi di una carriera dire no ai propri capi, ai propri superiori diventa veramente molto molto difficile. E quasi sempre le persone non lo dicono di no, magari rischiando poi di fare qualcosa in maniera non buona, non perfetta. Però quello che io ho visto anche su me stessa, io quando ho iniziato a lavorare e per i primi anni della mia carriera ho cercato di, non ho mai detto di no, non mi ricordo di aver detto di no, e mi ricordo di aver sempre lavorato tantissimo e cercando di fare tutto quello che mi veniva chiesto. Chiaramente quando poi si procede nella carriera, si acquista sicurezza in se stessi, chiaramente, e i rapporti con le persone diventano rapporti, diciamo, in qualche modo più equilibrati, allora diventa più facile dire no, diventa più facile argomentare anche il no. E poi ovviamente dopo, quando diventi tu stesso un capo, diventa ancora più facile. Io non ho mai personalmente avuto grandi bisogni di dire no nella mia carriera, perché non mi sono mai state chieste cose stravaganti. Forse l'unica volta che ho detto un no è forte, deciso, e poteva anche costarmi in un qualche modo la carriera, è stato quando mi è stato chiesto di spostarmi a lavorare in un paese straniero, che è un paese bellissimo fra l'altro, dove io sarei andata immediatamente se non fosse stato per un problema di sicurezza e anche di cultura. Io, avendo due figlie, non mi andava di portare le mie figlie in un paese come quello, perché sapevo che l'offerta scolastica eccetera. Quindi ho detto di no, rischiando che qualcuno mi dicesse: va bene, quindi allora se non ti sposti non c'è più un lavoro per te. È successo? Non è successo, ho argomentato il motivo, e devo dire che anche con mia sorpresa la reazione è stata: no, hai ragione, non ci avevo pensato a questo aspetto, io non ho figli, il mio capo non ha figli, e quindi questa cosa non l'avevo valutata, hai ragione, scusami. Questa è stata la reazione. Una reazione intelligente. Onorevole Zanetti, se l'assertività, cioè il comunicare nel modo giusto le proprie opinioni, è fondamentale per qualsiasi lavoratore, in qualsiasi contesto di lavoro ci si trovi a operare, in politica l'assertività è fondamentale. Lei quante volte ha detto di no? L'ultima è quando non è entrato al governo Gentiloni. Come l'ha detto? E hanno capito le sue ragioni? Penso le abbiano capite, le ho spiegate in modo molto semplice, cioè che di fronte a un governo di transizione necessario in attesa di una legge elettorale non avrei avuto certamente problemi a farmi carico della responsabilità insieme al mio movimento per quota parte. Di fronte invece alla riproposizione del governo Renzi senza Renzi, nel quale noi avevamo creduto e crediamo ancora, ho ritenuto però più opportuno attendere un passaggio elettorale. Se gli elettori ci manderanno di nuovo al governo, volentieri parteciperemo. Così francamente ci sembra una scelta azzardata e anche poco rispettosa di un esito elettorale che è stato a noi avverso, ma anche molto chiaro. Queste credo siano delle argomentazioni appunto chiare e assertive. In politica è necessario essere sintetici prima ancora che assertivi. L'importante poi però, quando c'è lo spazio per poter argomentare meglio le proprie sintetiche dichiarazioni, avere gli argomenti appunto per andare in quella direzione, altrimenti si passa dalla giusta sintesi al bieco slogan. Ecco, e a proposito di slogan, Sandra Mori, nella dimensione, diciamo, quotidiana, no, del lavoro, le persone che dicono di sì a tutto spesso finiscono per lavorare male, ed è questo è una, diciamo, un principio considerato accertato, assodato, lo dicono anche i due studiosi inglesi che abbiamo citato prima, Sue Hadfield e Jill Hasson. È così davvero? Dire di sì sempre finisce per svilire il proprio lavoro? Penso di sì, è sicuramente così, anche perché è proprio una questione di capacità e risorse. Se le risorse vengono sfruttate sempre, costantemente, chiaramente poi le risorse non rendono più, perché siamo tutte persone e abbiamo tutti i nostri limiti. Per cui sì, è vero. Che dire sempre di sì a un certo punto si ritorce contro, perché poi non si riesce più a fare il lavoro bene, e quindi ci deve essere un momento nella carriera in cui uno acquista, diciamo, coscienza di sé, coscienza del proprio valore e comincia anche a dire no. Io lo vedo molto legato alle competenze. Tanto più uno diventa sicuro delle proprie competenze, tanto più uno riesce ad affermare queste competenze nel mondo del lavoro e quindi far valere quella che è la vera professionalità, senza necessità poi di dover dire sempre di sì a qualunque cosa venga proposta o gli venga assegnata, che è anche chiaramente al di fuori delle proprie competenze. Perché se uno è forte, se uno è bravo in una determinata cosa, poi secondo me viene anche abbastanza naturale che nel mondo del lavoro la persona venga sfruttata per quello che sa fare meglio, piuttosto che per le 100.000 altre cose che può saper fare ma non allo stesso livello. Quindi costruirsi una forte base di competenze per me è essenziale, anche per poi essere in grado di dire dei no. Esatto. Senta, onorevole Zanetti, lei si sente diciamo piuttosto competente nel suo settore e pensa che questo sia un punto di forza per cui alla fine prima o poi la verranno a cercare? In politica, dico. Ma io credo sicuramente nell'ambito delle politiche fiscali di avere una competenza tecnica più che discreta, e rispetto a questo punto anche a un ruolo politico direi sicuramente molto buona, nel senso che legittimamente ci sono tanti politici che magari si trovano a occuparsi di questi temi senza realmente averne un retrostante. Credo però che di persone tecniche valide in gamba ce ne siano per fortuna tante, mai abbastanza, ma tante. Se a questo saprò sempre abbinare anche una certa capacità di consenso e di coinvolgimento di persone come in politica si deve fare, ecco allora che sarà un elemento in più che probabilmente mi darà forza, altrimenti certo. Approfitto della sua competenza, appunto, fisco, economia, l'Europa ci sta chiedendo, Bruxelles ci sta presentando il conto che andava presentato qualche mese fa quando al governo c'era ancora Renzi, e poi si è, diciamo, stabilita una pausa, una sospensione, e adesso però i nodi arrivano al pettine. Lei non è più al governo, però immagina dove andranno cercati i 3 miliardi in più che bisogna scucire. Guardi, in realtà non è che si tratta di sospensioni, conti che vengono fatti pagare, cioè le tempistiche nel dibattito con l'Europa sono sempre le stesse. No, però la domanda è: dove si trovano questi soldi? Non si devono trovare, non va fatta alcuna manovra correttiva. Il 2,4 va benissimo, è meno del 2,6 dell'anno scorso, che a sua volta era meno del 3% che avevamo trovato all'inizio della nostra avventura di governo. Ogni anno devono continuare a esserci miglioramenti, questa è una cosa che ci dobbiamo autoimporre come italiani, perché sennò non abbiamo capito veramente nulla, ma questi miglioramenti devono essere sostenibili rispetto a un'economia che a sua volta sta crescendo in modo molto contenuto. Fino a che non ci sarà una crescita più robusta, i miglioramenti non possono essere più robusti di quelli che stiamo noi stessi proponendo e che ci sono. Quindi l'Europa, lo dico da europeista convinto, in questo caso sbaglia ad attaccarsi a un ulteriore 0,2% e quindi così migliori è. Anno su anno in modo graduale. Sandra Mori, in chiusura, approfitto invece del fatto che lei si trova nella sua sede di lavoro a Londra. Theresa May ha annunciato che Brexit sarà e sarà dura. Che succede? Che succede visto lì da Londra? Siamo un po' preoccupati perché ci aspettano forse anni complicati di trattative. I nostri ragazzi che vivono e lavorano a Londra, tanti potrebbero trovarsi in difficoltà, secondo lei? Succede poco al momento, perché nessuno ha molto chiaro quello che dovrà essere fatto e c'è una grandissima incertezza. Quello che io vedo anche qui da me, dove nei nostri uffici il 30% delle persone che lavorano qua non sono inglesi, vengono da tutto il mondo. Gli uffici sono Coca-Cola, ricordiamolo, sì. Per chi non ci avesse seguito. C'è un po' di paura, sì. Devo dire che forse è proprio la la parte dove si sente di più, si respira di più il Brexit è proprio quella, è nei comportamenti e nelle paure delle persone che qui hanno un lavoro, hanno trovato lavoro, lavorano anche da anni, ma che non sono cittadini inglesi e quindi non sanno quello che succederà. Allora io penso che alla fine, io sono una persona generalmente ottimista, per cui penso che alla fine ci sarà un qualche tipo di criterio di ragionevolezza che verrà applicato proprio per chi qui ci lavora da anni, alcuni anche da sempre. Io ho colleghi qui che hanno iniziato, pur essendo non inglesi, hanno iniziato a lavorare a Londra. E quindi io penso che sia impossibile prescindere dall'applicazione di un criterio di ragionevolezza per chi già lavora qui. Però è verissimo che la paura più grande è legata al lavoro, alla possibilità di conservare il lavoro o alla necessità di dover aggiungere altri requisiti a quelli già richiesti per poter lavorare in Inghilterra. E è tangibile questo. Questo si percepisce. Parlando con le persone, ecco, si percepisce tantissimo. Bene, io ringrazio l'onorevole Zanetti, ringrazio Sandra Mori, presidente di Valore di General Council Europe di Coca-Cola a Londra. Buona domenica a voi e noi torniamo tra pochissimo. Nessuna è perfetta. Eccoci, questa è l'ultima parte di Nessuna è perfetta, quella in cui la nostra coach della settimana risponde a quello che è un problema emerso attraverso le mail delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori. Come sapete, stiamo parlando di come comunicare in ufficio, nel posto di lavoro, come farlo senza essere confusi, sottomessi o nemmeno però isterici e aggressivi. La parola chiave è assertività, che è proprio questo, significa comunicare nel modo giusto. E lo facciamo, vi ricordo che potete scriverci, mandare i vostri commenti su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta o su Facebook. La mail di questa settimana è proprio legata alla incapacità di dire di no nel modo giusto, e a scriverci è Marta. Ci sono ricascata anche oggi pomeriggio in ufficio, come sempre, oberata di lavoro, incastrata tra mille telefonate da fare, email da inviare, richieste del capo. E infatti arriva lui e col sorriso stampato sul volto capisco già che ha del lavoro di più da chiedermi. La richiesta arriva e io, come da copione, dico sì. Dovevo dire di no, lo sapevo, perché ho già troppe cose da fare, e invece ho risposto sì per l'ennesima volta, sentendomi una stupida perché non riesco mai a dire quello che penso. Ecco, e vediamo come aiuta Marta, la nostra Maria Serena Ciambellotti, la nostra coach di questa domenica, con le sue pillole, le pillole di saggezza della nostra coach su come essere assertivi. Buona domenica. Buongiorno Maria, buona domenica a tutti. Allora, prima pillola per presentarsi in maniera assertiva alle richieste inevitabili che riceviamo da capo, colleghi, quando siamo già operate come la nostra ascoltatrice. Avere ben chiaro il proprio obiettivo e quindi presentarsi ogni giorno in ufficio con le tre cose importanti da portarsi a casa, cascasse il mondo, entro quella giornata. Avendole quindi ben chiare, la richiesta di aiuto, di supporto, che inevitabilmente capita, riusciamo a confinarla, perché diciamo di sì ai nostri obiettivi. Quindi il dire di no all'altro è in realtà un dire di sì al proprio obiettivo, mantenendo fede a quello che è il proprio impegno per la giornata. Le tre cose importanti. Seconda pillola, come dirlo questo no? Con la tecnica del sandwich, che quindi ci permette di racchiudere la notizia negativa tra due affermazioni positive. Facciamo un esempio. Sarei felice di aiutarti, quindi dico una cosa positiva, sarei felice di aiutarti, poi no, ora non posso perché sto finendo questa relazione, chiudo con una notizia positiva, alle 4 posso esserti d'aiuto, oppure domattina appena arrivo in ufficio posso occuparmi di questa cosa. È importante quindi essere però molto specifici quando si dice il no. Certo, non ho da fare, ma sto facendo questa cosa che devo terminare entro le 19, ecco, essere precisi, no? Tra l'altro, e questa è la terza pillola, chi tende a dire di no, ed è interessante la parola che ha usato chi ci ha scritto, dice il copione, perché è proprio un nostro copione, no? Quello di ricadere in queste dinamiche, temere di essere, di arrivare come poco professionale o poco disponibile, è tutto il contrario, perché proprio la professionalità passa attraverso la capacità di mantenere fede ai propri impegni presi. Quindi se io ricevo, se io arrivo a fare una richiesta a qualcuno e la persona mi dice sempre di sì, mi verrà il dubbio che alla prossima richiesta di qualcun altro mollerà il mio e si darà seguito a quell'altra richiesta, certo. Me lo aspetto che un professionista mi dica no, non adesso, perché ho questo altro obiettivo, quindi quando vedo che ha chiarezza in mente, che ha qualcosa di specifico da fare, lo rispetto, anzi, no? Qui accresco la mia stima per la sua professionalità e mi sento anche rassicurata dal fatto che una volta che si prenderà in carico il mio compito, la parte di lavoro che le chiedo di fare, lo farà con dedizione, con puntualità e con affidabilità. Tornando quindi poi al copione, diciamoci la verità, ci piace sentirci utili perché questo ci fa sentire importanti, no? Quindi la gratitudine che dall'altra parte arriva quando diciamo sì, va bene, dai, ti do una mano, è quel meccanismo che ci fa ricadere nel circolo vizioso. Il punto d'attenzione qual è? È che questo meccanismo, quando durante la giornata diciamo sì agli obiettivi degli altri e diciamo quindi di no ai nostri, ci fa crescere dentro una frustrazione, una rabbia che poi rischiamo di far esplodere magari a casa con chi non c'entra nulla e che in quel momento semplicemente magari ci sta chiedendo quindi, dai una mano su questo, e tutta la frustrazione e la rabbia esplodono essere, in maniera inappropriata. Essere assertivi non migliora soltanto le relazioni con i propri colleghi, ma migliora anche le relazioni a casa con marito, figli, fratelli, eccetera. Sì. Ecco, grazie alla nostra coach, grazie a Maria Serena Ciambellotti grazie e alle sue pillole di saggezza di questa domenica. Buona domenica a lei e buona domenica a voi che ci avete ascoltato.